4B. Ascolta e trasforma. Sa fare tutto. Sanno fare tutto. Sa dipingere. Sanno dipingere. Sa il proverbio. Sanno il proverbio. Sai suonare il piano? Sapete suonare il piano? Sai giocare a tennis? Sapete giocare a tennis? Sai la strada? Sapete la strada?